perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Mauro Meazza, che non c'è neanche oggi, naturalmente, ma ve l'ho preannunciato ieri, gli lasciamo smaltire questa influenza che per la verità sta martellando diverse persone. Io ancora resisto, speriamo di resistere a lungo. Detto ciò, intanto Mauro lo salutiamo con, come sempre, con affetto. Sei lontano, ma sei nel cuore dei nostri ascoltatori, in tanti ti stanno cercando perché hanno molto apprezzato, Mauro, la modalità appunto di conduzione di Due di Denari da quando siamo insieme, questo ci fa molto piacere. Detto questo, oggi al timone da sola, di quali temi parliamo? Con i nostri amici che ci seguono da casa e che naturalmente come sempre possono interagire con noi, intanto chiamandoci in diretta all'800 24 0024 oppure scrivendoci al 349 238 6666, riceviamo i vostri messaggi, riceviamo i vostri messaggi anche su WhatsApp, ci potete seguire live su Facebook, la diretta è partita e quindi potete anche animare il social network. Allora ribadisco, di cosa parliamo oggi? È fallita negli ultimi giorni un'altra compagnia aerea, la Monarch Airlines, è una low cost britannica e anche in questo caso ci sono diversi italiani coinvolti, mentre è ancora nel pieno caos la vicenda Ryanair, che la settimana scorsa ha annunciato la cancellazione di altre centinaia di voli da qui alla prossima primavera. Quindi dibattito aperto, ma soprattutto molta incertezza per tutti coloro che da qui alla prossima primavera avevano prenotato dei biglietti e adesso si cerca di capire che cosa dovranno fare prossimamente, ma soprattutto c'è molto disappunto da parte di diverse associazioni dei consumatori che non gradiscono la modalità con cui Ryanair vorrebbe anche indennizzare le persone che non possono più partire, quelle che naturalmente avevano prenotato i viaggi cancellati. E questo è il primo tema che affrontiamo oggi, un nuovo punto della situazione per tutte le persone pronte a partire. Nel secondo caso, nella seconda parte della trasmissione, parleremo invece di investimento in diamanti, perché è riesploso il caso dell'investimento appunto in diamanti che è stato sottoscritto da moltissime famiglie italiane negli ultimi anni, che hanno provato in questo modo anche a cercare di arginare la crisi finanziaria in corso. E dopo le denunce dei mesi scorsi, l'apertura di indagini, l'attesa di una decisione dell'autorità garante del mercato sulle pratiche commerciali dei principali operatori di mercato, ora si apprende che alcune banche distributrici starebbero convocando i propri clienti e stabilendo anche delle iniziative di restituzione dei capitali investiti. Non senza però strascico di polemiche, perché il tema qual è? Che questi investimenti sono stati fatti a determinati prezzi. Ora le persone che vorrebbero disinvestire non riottengono ovviamente lo stesso valore, ma soprattutto molto spesso la banca dice no, non te lo possiamo restituire perché questo prodotto è illiquido. Insomma, una situazione molto complessa. Le modalità per intervenire in diretta io ve le ho ricordate, adesso direi di partire subito con il primo tema di oggi. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. Allora, intanto saluto Nicola Borzi, che non è coinvolto nella prima parte del programma, però ti devi sentire un po' le novità che ci sono su Ryanair e Monarch Airlines. Sei coinvolto? Hai prenotato qualche viaggio? Sei pronto a partire? Nessuno. No, allora rimani lì. Sento la voce di Barry White. Come dire, la sostanza di Barry White. Ci piace però noi la voce calda del mattino accompagna sempre i nostri ascoltatori. La voce raffreddata del mattino. Vabbè, senti, allora stai qua, non partire, occupati dei temi di Plus 24 che ci sembra più interessante. Allora, è davvero un momento complicato in cielo, parliamo di compagnie aeree che a vario titolo sono in difficoltà, fino a quelle che gettano del tutto la spugna e lasciano a terra migliaia di passeggeri. In Italia abbiamo una partita intanto completamente aperta con l'Italia che continua a volare, ma si cerca insomma un nuovo socio, qualcuno che rimpingui un po' le casse della compagnia. Ma intanto negli ultimi mesi sono stati segnati dal caso Air Berlin, dalla vicenda Ryanair che ha ancora strascichi pesanti e due giorni fa un'altra compagnia, stavolta inglese, ha chiuso i battenti. Si tratta della low cost Monarch Airlines, che ha cessato le operazioni lasciando a terra tutti i velivoli, 35, quasi tutti Airbus, insieme a 110.000 passeggeri, in buona parte bloccati all'estero. Sono state oltre 300.000 le prenotazioni cancellate. Il governo britannico ha effettuato un'operazione veramente incredibile, perché ha subito dato il via alla più grande operazione di rimpatrio del dopoguerra, addirittura è stata paragonata ad una fase storica un po' più complicata di quella attuale, mobilitando una trentina di aerei per poter riportare a casa i passeggeri Monarch rimasti bloccati all'estero. È una compagnia che operava almeno fino a due giorni fa su quattro basi britanniche più importanti, trasportava 6 milioni di passeggeri l'anno su oltre 40 destinazioni, 5 delle quali in Italia: Roma Fiumicino, Napoli, Torino, Venezia e Verona. Qual è la situazione in questo momento per quello che riguarda gli italiani? Questa mattina ne parliamo con la dottoressa Giovanna Laschena, vice direttore centrale economia e vigilanza aeroporti di ENAC. Dottoressa, ben ritrovata intanto qua, quanto pare. Buongiorno. Ogni settimana tocca richiamarla per avere qualche punto della situazione. Buongiorno, allora, a voi e buongiorno agli ascoltatori. Che punto è necessario fare sulla situazione Monarch, naturalmente per quello che riguarda il possibile fronte italiano aperto? Dove sono gli italiani che avevano prenotato viaggi con questa compagnia? Sono in difficoltà? Come state monitorando, dottoressa Laschena, la situazione? Allora, sugli aeroporti italiani coinvolti, Fiumicino, Verona, Venezia e Napoli, al momento non ci sono problemi, in quanto appunto l'autorità dell'aviazione civile inglese sta provvedendo alla riprotezione dei passeggeri. Per quanto riguarda invece i passeggeri che si trovano in questo momento nel Regno Unito e devono raggiungere destinazioni al di fuori appunto di questo paese, qualche problema c'è, perché la riprotezione deve avvenire direttamente per conto del passeggero stesso, quindi il passeggero si deve organizzare con i voli che sono previsti in uscita dal Regno Unito per le altre destinazioni. So che però non è facile stabilire il numero degli italiani coinvolti in questo frangente difficile, perché dovrebbe fornirlo questo numero alla compagnia, ma non lo fa in questo momento. Sì, giusto? Infatti la compagnia in questo momento è fallita, per cui non solo non può fornire il numero dei passeggeri, ma tra l'altro non può nemmeno rifondere il prezzo del biglietto e quindi riproteggere i passeggeri. Per cui diciamo che da questo punto di vista qualche disagio in più i passeggeri ce l'hanno rispetto a Ryanair. Speriamo che questo significhi che siano pochi o pochissimi, dottoressa Laschena. Voi eravate stati contattati tempestivamente dall'ente dell'aviazione civile britannico per appunto informarvi? Abbiamo ricevuto non soltanto dall'ente dell'aviazione civile del Regno Unito, ma anche dall'ambasciata britannica, una tempestiva informativa in cui appunto ci dicevano che la Monarch avrebbe cessato le operazioni perché è in amministrazione straordinaria, insomma in fallimento. E quindi ci davano informazioni riguardo a queste procedure che avrebbero adottato per la riprotezione dei passeggeri. Sì. Che sono per la maggior parte inglesi, quindi diciamo che effettivamente gli italiani sono una minoranza. Ci spiace per loro naturalmente, ma sì, chiaramente a noi interessa sapere un po' gli italiani in giro per il mondo se devono essere recuperati o devono riorganizzare il loro rientro. Dottoressa Laschena, il punto invece su Ryanair. Ricordiamo appunto che questa compagnia low cost è molto nota, di grande successo, ha annunciato tra metà settembre e fine settembre la cancellazione di migliaia di voli per una serie di questioni organizzative interne. C'è il cumulo di ferie arretrate dallo staff di bordo da smaltire entro il 2017, perché ricordiamo che la compagnia era stata costretta dall'autorità dell'aviazione irlandese a spostare il calendario fiscale dal periodo aprile-marzo a quello gennaio-dicembre, concentrando a fine anno i giorni di riposo obbligatori di piloti e personale di cabina. Oltre a questo, poi, per altre ragioni sulle quali oggi non ci soffermiamo, il vettore sta anche soffrendo la fuga di decine e decine di piloti verso compagnie concorrenti. Qua la situazione è molto più complessa, perché qua in realtà parliamo di un quadro molto complicato per migliaia di passeggeri italiani che hanno prenotato voli da qui alla prossima primavera, e Ryanair sta continuando a cancellare voli su voli. Ad oggi la situazione qual è? Perché so che voi avevate in programma con la compagnia un incontro a breve. Ce lo conferma? Sì. Ci sarà? Allora, l'incontro per quanto riguarda la tutela dei consumatori non è stato confermato, ma ci sarà probabilmente un incontro dei vertici di ENAC con i vertici di Ryanair. perché diciamo, per quanto riguarda la parte tutela dei passeggeri, noi abbiamo avviato le procedure per sanzionare le irregolarità e le violazioni del regolamento 261 del 2004, che è quello che regola appunto i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo. E al momento siamo appunto in contatto con la compagnia per cercare di ridurre al minimo le problematiche che hanno i passeggeri per richiedere appunto i rimborsi, oppure per essere riprotetti, o per richiedere la compensazione nei casi in cui ne hanno diritto. Una situazione fluida dunque, sulla quale, dottoressa Raschena, peraltro vigilano molto attentamente anche le associazioni dei consumatori, una molto attenta sul caso Ryanair e Conf Consumatori. Noi abbiamo reinterpellato di nuovo questa mattina l'avvocato Carmelo Calì, legale di questa associazione dei consumatori. Siede in realtà al tavolo anche ENAC quando ci sono vicende di questo tipo, è in prima linea. Avvocato Calì, ben ritrovato, buongiorno. A voi non è piaciuta l'ultima trovata di Ryanair, quella relativa alle email con le quali la compagnia sta offrendo dei buoni, dei voucher che vanno dagli 80 ai 40 euro da utilizzare entro la primavera dell'anno prossimo. Perché cosa? Non si sa, perché se continuano a cancellare dei voli, danno dei voucher, per quale ragione? Avvocato Calì. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi consento un flash sulla, visto che parliamo di compagnie che lasciano a piedi i passeggeri. Come si ricorderà, nel 2012 ci fu il caso Wingjet, e poco fa si è conclusa innanzi al Tribunale di Catania la prima udienza del processo in seguito al rinvio a giudizio degli imputati. L'udienza è stata rinviata il 9 gennaio per un vizio di notifica, quindi noi abbiamo preannunciato la nostra costituzione di parte civile e anche dei passeggeri, quindi anche i passeggeri che vorrebbero ancora costituirsi sappiano che hanno tempo fino a tale data. Benissimo. Flash e vado alla questione Ryanair. Sì, noi abbiamo contestato perché abbiamo visto che innanzitutto proporre un buono in aggiunta al rimborso del biglietto o non in aggiunta al rimborso del biglietto, in genere e come di fatto è generato nelle mail che ci hanno inviato molti passeggeri, confusione. Alcuni credono che il buono costituisca la compensazione pecuniaria, e ci rendiamo conto che la compensazione pecuniaria, il minimo sono 250 euro in denaro, il buono sono massimo 80 da utilizzare come volo, in un periodo tra l'altro nel quale la compagnia non si sa se volerà, certo. Ecco, quindi allora questo non, diciamo, noi l'abbiamo contestato e lo respingiamo al mittente, perché la compagnia non può sottrarsi. Fa piacere che la dottoressa Raschena abbia annunciato qui in trasmissione che l'ENAC ha aperto un procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione delle sanzioni per violazione del regolamento, come noi abbiamo chiesto sin dal primo momento, perché abbiamo sempre sostenuto che già dal primo momento vi era una violazione del regolamento rivolta alla generalità dei passeggeri, a prescindere poi dalle violazioni nei confronti del passeggero Tizio, Caio, Sempronio. Quindi, e qui ancora una volta si tratta di una violazione, perché non viene offerta quello che è un diritto del passeggero, che è la compensazione pecuniaria e ancor più il risarcimento supplementare. Noi abbiamo avuto segnalazioni di passeggeri che sono stati costretti a acquistare soluzioni alternative, viaggi, albergo, dove sono dovuti fino a 3.000 euro, chi 900 euro, chi 1.500, una persona, certo, una famiglia addirittura è stata costretta per rientrare dall'estero a pagare complessivamente tra permanenza eccetera, certo. Allora è chiaro che questo, quindi voi può, quantomeno chiedete il risarcimento di tutto. Sì, certamente noi diciamo che ai passeggeri di insistere, perché questi sono dei tentativi a nostro avviso della compagnia di lanciare un minimo, un contentino affinché qualcuno magari ci possa cascare e accontentarsi di questo. No, il buonismo di Ryanair l'avete chiamato voi, avvocato Calì, l'ho visto. Senta, come? Ma come? L'avete chiamato il buonismo di Ryanair, sì, sul vostro comunicato stampa. Sì. Senta, ci sono degli ascoltatori che intanto abbiamo capito che voi contestate questa modalità al momento di tenere tranquilli i passeggeri che hanno appunto prenotato dei voli per la prossima primavera, anzi no, quelli che se li sono visti cancellare adesso e hanno praticamente come compensazione questo buono da eventualmente utilizzare entro la primavera 2018, e non si sa neanche se quei voli poi ci saranno, perché ad oggi abbiamo un tot di cancellazioni, ma chissà che non se ne aggiungano, speriamo di no, anche prossimamente. C'è un'ascoltatrice per esempio che ci scrive: Giulia, mia figlia ha prenotato con Ryanair per dicembre, che cosa succederà? Volevo ritornare alla dottoressa Laschena, se ce l'abbiamo. La compagnia, dottoressa, continua ancora a pubblicare sul suo sito i voli che progressivamente cancella, quelli che sono confermati o meno, quindi un'informazione di questo tipo. Il passeggero deve essere tempestivamente informato, no? Con l'SMS, con ogni modalità. Sicuramente, ma la compagnia ha comunque pubblicato la nuova serie di cancellazioni che vanno da novembre fino a marzo, e quindi comunque il passeggero in questo momento diciamo può verificare sul sito della compagnia. È chiaro che comunque rimane fermo l'obbligo da parte di Ryanair di procedere ad inviare al singolo passeggero un'email o comunque un SMS con il quale appunto gli viene comunicata effettivamente la cancellazione del suo volo. Certo. Avvocato Calì, noi dobbiamo salutarci fra un attimo. Su Monarch Airlines voi avete segnalazioni di italiani in difficoltà? Abbiamo qualche segnalazione, ma diciamo hanno chiamato nell'immediatezza, forse nel frattempo stanno risolvendo. E volevo aggiungere una cosa sulla faccenda Ryanair, sulle cosiddette riprotezioni con i pullman di cui si è avuta notizia in questi giorni. Sì. Ribadiamo che in materia di riprotezione, quando la compagnia cancella un volo ha l'obbligo di riproteggere il passeggero con un altro volo, ma il passeggero resta libero di accettare o meno la riprotezione e quindi eventualmente scegliere. Quindi figuriamoci quando la riprotezione non è gratuita al passeggero quando la compagnia sceglie un volo. Figuriamoci quando si tratta di andare in pullman per chilometri e chilometri. Anche questa è una soluzione da respingere, perché anche questa è una violazione dei diritti. Vabbè, torneremo a fare un punto prossimamente della situazione, magari con entrambi, se lo vorrete ci risentiremo fra una settimana. Grazie alla dottoressa Giovanna Laschena dell'ENAC, all'avvocato Carmelo Calì di Conf Consumatori. Andiamo rapidamente al prossimo argomento. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Barry White qua si è anche travestito da Marilyn Monroe. Nicola, di nuovo ciao. Allora, buongiorno. Hanno avuto un'esplosione di consenso che si poteva forse per qualche verso considerare inevitabile, no? Data la crisi economica degli ultimi anni, le incertezze dei mercati finanziari, la ricerca di alternative considerate sicure, sono tutti fattori che hanno portato molti italiani ad investire negli ultimi anni in diamanti. Un punto di forza di questo mercato era rappresentato nella percezione generale dal fatto che, essendo in larga parte distribuiti in banca, potessero essere una modalità sicura di diversificare il risparmio. Questa tendenza ha fatto spiccare il volo alle quotazioni dei diamanti da investimento e ha reso protagonisti in particolare due società molto attive in Italia che controllano, come avete calcolato voi Nicola, su Plus 24 il 70% del mercato nazionale, anche di più. E poi appunto queste quotazioni sono finite alla ribalta della cronaca per altri motivi, perché sarebbero in realtà un po' eccessive, quasi da bolla, rispetto ad una serie di parametri internazionali certificati che adesso descriveremo. E poi qual è stato l'altro problema? Che in realtà, chiaramente, quando tu fai un investimento hai bisogno di incassare, va in banca e chiedi quantomeno la restituzione dell'investimento fatto. Se non è un mercato azionario che magari sai che un po' oscillerà, ti aspetti che la banca o chi per lei ti restituisca tutto. Invece o i prezzi non sono gli stessi che tu immaginavi, o addirittura in banca ti dicono no, ma in realtà adesso non te lo possiamo rivendere, per cui non ti possiamo non risarcire ma restituire quello che hai investito. Un po' il problema di base dell'investimento in diamanti è questo, oltre alle pratiche commerciali ritenute non proprio chiare, tali per cui l'autorità garante del mercato ha messo sotto osservazione appunto gli operatori del settore. Caro Nicola, voi ci siete ritornati sabato scorso sull'argomento, perché su Plus 24? Ci siamo tornati perché nei prossimi giorni l'autorità antitrust pubblicherà le sue decisioni su questi due operatori, Intermarket Diamond Business e Investment Private Diamond. Esatto. Sì. Allora, la questione qual è? Innanzitutto i prezzi. I prezzi pubblicati da questi due operatori, con cadenze periodiche, non quotidiane, ma bimestrali, trimestrali, eccetera, sono prezzi autoprodotti. Sono prezzi autoprodotti che non trovano un riferimento né nella cosiddetta Bibbia del settore, che è il rapporto Rapaport, né nelle rilevazioni che vengono effettuate da altri operatori. Ad esempio, noi, per fare una comparazione, abbiamo utilizzato quelle che sono diffuse da Reuters. Abbiamo preso delle pietre di stessa qualità, stesso colore, stesso indice di purezza. E non me ne hai portato neanche una? No, perché non ne possiedo una nemmeno io. E su un periodo di 15 anni, quasi 16, dagli inizi del 2002 a oggi, abbiamo rilevato i prezzi pubblicati dai listini di questi due operatori. Sono andato io a scaricarmi dai loro siti tutte le comunicazioni in formato PDF e le ho inserite in un foglio Excel. Poi abbiamo preso i prezzi di Reuters, che sono espressi in dollari, e li abbiamo convertiti in euro alle stesse date, e abbiamo creato due grafichetti nei quali si vede che se nel 2002 la differenza tra i valori di listino, perché non sono, come dire, dei veri prezzi pubblicati da questi due operatori, era di circa il 200%, alla fine del 2016, metà del 2017, quando DPI ha proseguito a pubblicare i suoi listini, mentre da sei mesi, ormai quasi nove, Intermarket Diamond Business li ha sospesi queste pubblicazioni, la differenza di prezzo è anche di 30.000-35.000 euro. Ora, ma la cosa, detto che, questo, la magari... cosa che colpisce di più è che, a fronte di prezzi di mercato che oscillano ma rimangono comunque nella stessa diciamo banda di oscillazione, addirittura nelle ultime settimane i valori di Rapaport stanno subendo dei ribassi pesanti, questi valori continuano da anni una crescita lineare parallela. Addirittura ho verificato personalmente che in alcune date in cui sono stati pubblicati casualmente nella stessa data i listini di questi due operatori, i prezzi riportati erano identici. Si vede che sono più scintillanti degli altri quelli che distribuiscono questi singoli. No, è che questi operatori offrono una serie di servizi, offrono la certificazione gemmologica, offrono la garanzia. Che è il loro, come dire, cavallo di battaglia, quando chiaramente si difendono rispetto a tutte le accuse riportate da Plus 24. C'è stata la famosa inchiesta anche di Report, voi avete scritto anche molto prima. Quindi, ma questi servizi, tu dici, non sono giustificati dal... Questi servizi ci sembrano eccessivamente cari. C'è poi la questione delle commissioni lasciate alle banche per questa attività di interfaccia allo sportello, la cosiddetta tramitazione dell'ordine, perché abbiamo saputo che le commissioni vanno da circa il 10 fino al 20%. Poi nel prezzo di vendita è compresa l'IVA, per cui chi investe magari con una commissione del 10 ci aggiunge un IVA al 22%, ha già un prezzo della pietra che è inferiore del 32%. Chi ha un prezzo della pietra dal quale deve sottrarre l'IVA al 22% e una commissione magari del 20%, deve sottrarre il 42%. Ma poi c'è una questione. La Consob non ha mai preso in esame questo settore, a parte un paio di situazioni nelle quali si è espressa con delle determine sue, perché se non c'è promessa di rendimento e non c'è impegno di riacquisto, l'investimento non è considerato investimento finanziario. Siccome nei contratti di questi operatori non c'è né promessa di rendimento né impegno di riacquisto, ma soltanto offerta di un eventuale servizio di ricollocazione delle pietre sul mercato, siamo sempre usciti da tutti gli obblighi di trasparenza, certo, di pubblicità, di prospetto previsti dalla Consob. Allora, ci fermiamo un attimo, Nicola, perché mi hai messo veramente in pentola tantissimi ingredienti da commentare ulteriormente. Lo faremo anche con Alessandro Pedone, responsabile tutela del risparmio per ADUC, un'associazione dei consumatori che è in prima fila nella battaglia per la trasparenza a proposito di questa tipologia di investimento, perché dal canto loro le associazioni dei consumatori invece stanno seguendo tutti quei risparmiatori che in questo frangente sono stati convocati dagli sportelli bancari presso i quali questi investimenti erano stati fatti, ma le modalità di risarcimento appunto non si capiscono come vengono pattuite, per cui ovviamente sostengono questi consumatori. Ci fermiamo perché adesso c'è la borsa, intanto 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta su questo argomento. Chiudo solo dicendo un'altra cosa, che per dovere di cronaca, per chi sollevasse subito la questione del contraddittorio, che noi abbiamo interpellato una delle due aziende nella persona dell'amministratore delegato, che ha ritenuto per il momento di non voler intervenire, di aspettare, ci ha detto, la decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sulle modalità di vendita e le pratiche commerciali di distribuzione di questi beni di investimento. Ci fermiamo, la borsa, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta due di denari. E ritorniamo sul tema dell'investimento in diamanti, un investimento che ha trovato grande riscontro negli ultimi anni di crisi finanziaria, anni in cui le famiglie italiane hanno provato a ricercare ogni modalità possibile per conservare i propri capitali, visto le oscillazioni dei mercati, dalle azioni alle obbligazioni. Peraltro, quante famiglie italiane si calcola abbiano questo tipo di investimento, Nicola Borsi? Perché i numeri sono non solo quelli delle quotazioni. Andiamo stime perché di numeri ufficiali non ce ne sono, parliamo di decine di migliaia e probabilmente superiamo le 100.000 abbondantemente. I diamanti dei quali parliamo non sono quelli che si vendono in gioielleria, ma sono quelli che vengono distribuiti appunto dagli sportelli bancari. E su questa modalità di distribuzione che sofferma l'attenzione l'Associazione dei Consumatori ADUC. Alessandro Pedone, responsabile tutela del risparmio per questa organizzazione, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, voi avete preso visione di una serie di mail ricevute da clienti di una grande banca italiana, mail con le quali queste persone sono state contattate ovviamente dal consulente bancario, perché queste situazioni devono essere in qualche maniera risolte. I sottoscrittori di diamanti non sono soddisfatti, soprattutto quando vanno a chiedere il disinvestimento, no? Allora, con queste mail, la banca che cosa chiede, che cosa invita a fare le persone, Pedone? Diciamo che noi abbiamo visto che una volta che i clienti delle banche sono assistiti correttamente, soprattutto trattandosi molto spesso di clienti che hanno una certa forza commerciale, nel senso che molto spesso questo tipo di operazioni venivano proposte non a piccolissimi investitori, ma già a investitori con portafogli interessanti per la banca. Allora, una volta ben assistiti, pur di mantenere il rapporto con il cliente, abbiamo visto diversi casi dove è stato proposto un rimborso anche integrale da parte della banca. Non in tutti i casi, quindi non dobbiamo dare messaggi sbagliati, nel senso che è facile avere il recupero, ma abbiamo visto soprattutto nell'imminenza appunto di questo pronunciamento che aspettiamo a giorni da parte dell'antitrust, le banche hanno un certo interesse a chiudere queste posizioni, quantomeno le posizioni un po' più importanti anche in termini di rilevanza economica. Ma questo secondo lei, Pedone, che cosa vuol dire? Che in qualche maniera anche le banche forse si sono trovate un po' sorprese rispetto all'evoluzione della piega presa da questa vicenda? Sì, sicuramente le banche sono state largamente incaute. Le faccio fare la difesa della banca, pensi, una posizione nella quale lei non avrebbe mai pensato di potersi trovare. No, decisamente. Le banche sono state largamente incaute nel fare questo tipo di operazione commerciale, che ha portato anche guadagni tutto sommato risicati rispetto ai volumi di tutta la banca, ma grandissimi danni reputazionali, perché parliamoci chiaro, senza voler scomodare termini pesanti, però tutta questa vendita di questi diamanti è stata fatta quantomeno in maniera estremamente fuorviante, perché chi andava in banca percepiva di fare un investimento così come poteva essere un fondo comune di investimento, un investimento azionario, magari un investimento, anzi veniva proposto come un investimento assolutamente sicuro, più tranquillo di quello delle obbligazioni, perché il grafico fatto da loro stessi saliva in continuazione. Certo. Quindi le modalità di commercializzazione di queste cose erano quantomeno fuorvianti, ma mi verrebbe sinceramente da scomodare parole molto più pesanti di questa cosa. Va bene, quindi ma le banche hanno un difetto molto grande, perché l'interfaccia con il cliente è stata del funzionario bancario, quindi molto spesso questi clienti non l'intermediario ne deve rispondere in qualche maniera, e certo, quindi anche ne deve in qualche modo rispondere. Giustamente Borsi sottolineava prima questo problema giuridico, che da un punto di vista proprio strettamente tecnico non si considerano strumenti di investimento e quindi non usufruirebbero di tutta una serie di vantaggi, di norme di trasparenza pensate per questo mercato, però è anche vero che funzionario che presentava questi prodotti molto spesso disinvestiva da strumenti finanziari per poi andare ad investire in questi strumenti. Quindi, se questo strumento non è uno strumento di investimento, la precedente operazione collegata certo era comunque vigilata da una serie di norme, e quindi se la finalità di quel disinvestimento era questo dell'acquisto in diamanti, un collegamento con queste norme di maggiore tutela da parte degli investitori potrebbe essersi trovato. Quindi diciamo che le banche si stanno un po' cautelando, certo, almeno nei casi più importanti dove gli hanno interesse a mantenere il rapporto con il Nicola cliente. Adesso vuole precisarci delle cose. Che sì, investimento, che taglio di investimento medio avevano le famiglie? Alcune decine di migliaia di euro. Volevo salutare innanzitutto Alessandro Pedone di Aduc. Poi volevo dire tre cose. La prima, in realtà c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano per truffa. Sono state perquisite nei mesi scorsi 5 tra le maggiori banche italiane. Tra l'altro noi, Nicola, anche un'altra precisazione facciamo, stiamo parlando di due grandi operatori di distribuzione appunto di diamanti, rappresentano oltre il 70% della quota di mercato, dicevamo, però sono di più gli operatori coinvolti, diciamo, in questo riflettore acceso attorno al mondo della vendita di diamanti, o riguarda solo loro l'inchiesta? No, riguarda l'inchiesta dell'antitrust, riguarda soltanto questi due operatori, così come l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, perché le modalità commerciali di questi due operatori sono diverse dagli altri, sono diverse dagli altri operatori, per cui addirittura alcune banche che lavorano con altri operatori non sono ricomprese né nell'inchiesta dell'antitrust né sono state perquisite a giugno dalla Procura della Repubblica. Seconda cosa, la questione della pubblicazione dei prezzi. Qualcuno ci dice sì, ma i prezzi di questi signori erano pubblicati da Sole 24 Ore. Infatti, attenzione perché questo è un giochetto sul quale l'ufficio legale del Sole 24 Ore negli anni scorsi è intervenuto anche su segnalazione del sottoscritto. Questi signori pubblicavano pubblicità, non tabelle, ma pubblicità che conteneva tabelle di prezzi che non erano né verificate né validate dal Sole 24 Ore. Successivamente queste tabelle di prezzi con la testata Sole 24 Ore venivano ritagliate e pubblicate sui loro siti come se il Sole 24 Ore avesse validato o certificato questi prezzi, cosa che non è mai avvenuta, mai. Tant'è vero che dopo le segnalazioni del sottoscritto l'ufficio legale del Sole 24 Ore ha vietato alla nostra concessionaria di pubblicità di comprare tabelle o pubblicità da questi signori perché e potevano pubblicare la pubblicità ma senza tabelle di prezzo. Le uniche tabelle che pubblichiamo noi, sulle quali possiamo dire che ci fidiamo e che rispondiamo, sono quelle che pubblichiamo del rapporto Rapaport che ho citato precedentemente. Ho detto questo stamattina, adesso poi a prescindere dal Sole 24 Ore che già ha le sue grane, quindi direi che stamattina non dobbiamo sollevare altre questioni. Esatto. Occupiamoci dei risparmiatori italiani che hanno investito in questi diamanti, che magari possono pure essere contenti di aver fatto questo investimento e di essere ben felici di aver visto queste lievitazioni di prezzo. Detto questo, il tema è però hanno bisogno di questo denaro investito in questo investimento finanziario che in realtà ancora non abbiamo capito. Ma la verità è che non possiamo definirlo una lievitazione di prezzo, ecco. Scusate, dobbiamo anche qui distinguere, perché è tutto sul filo del rasoio questo discorso. Dobbiamo distinguere tra i prezzi, che sono quelli di un mercato, esatto, e questo non è un mercato, offerta, esatto, perché non c'è domanda e offerta, c'è soltanto il collocamento dall'alto verso il basso, dai broker verso i sottoscrittori, con la promessa di un servizio di ricollocamento, ma non un riacquisto a prezzo certo, quindi questo non è un prezzo. E i listini, che sono un'altra cosa, io posso scrivere che il grano vale 500.000 euro al chilo, ma è un listino mio, ma che certo, non ha un valore ufficiale. Posso dire che quella casa in quella zona teoricamente il mercato dice che abbia un prezzo al metro quadro di una determinata cifra, ma poi magari io posso decidere di comprarla al quadruplo del prezzo, se perché è un pezzo voglio. Di prezzo, perché la faccio io, esatto, e quindi il venditore è ben contento. Quindi ci sono sicuramente anche questi aspetti da affrontare. È tardissimo, devo andare al traffico. Mauro Meazza avrebbe già urlato traffico, andiamo. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Due di denari. Allora, discusso investimento in diamanti, una situazione piuttosto complessa, di sicuro canzoni ce ne sono sull'argomento. Seconda questione, nel caso molto improbabile in cui io mi dovessi fidanzare, caro Nicola, non sarò tanto schizzinosa se me lo dovessero regalare, te lo dico già. Ma è un'altra funzione, quello non è un investimento. Però suggerirò al potenziale fidanzato di non andarlo magari a comprare con questa modalità, oppure magari... No, ecco, qui c'è un'altra questione, esatto, le dimmi gioiellerie. Un po', ma quindi dobbiamo proprio adesso rifuggire completamente da no, questo investimento se ce lo propongono in banca. Cosa dobbiamo chiedere? Allora, facciamo un po' di educazione finanziaria. Allora, la questione deve essere chiara. Devono essere evidenti innanzitutto le modalità di formazione del prezzo, quindi deve essere evidenziato in maniera molto chiara qual è la commissione che la banca si trattiene, qual è il valore della pietra, qual è, e deve essere un valore che non deve essere legato a dei listini autoprodotti, ripeto ancora una volta, ma a delle quotazioni che possono essere reperite ad esempio su Rapaport, non su listini propri del collocatore. Deve essere evidenziato il fatto che c'è una componente fiscale. Se poi viene definito investimento finanziario e non investimento pure semplice, a questo punto deve essere possibile per chi lo sottoscrive poterlo rivendere al valore di listino, cioè al valore di mercato, certo. Pardon, non di listino. Mentre qui, ancora una volta, ripeto, non c'è garanzia di rivendita. Non c'è garanzia di rivendita e non si può parlare di rendimento. Perché proprio non c'è garanzia di rivendita e non c'è un prezzo di mercato. Intanto ci sono degli ascoltatori che ci stanno scrivendo su WhatsApp cos'è successo loro allo sportello bancario. Un ascoltatore, Roberto, ci racconta che allo sportello appunto di una grande banca italiana gli è stato proposto l'investimento esattamente come sta raccontando il nostro ospite. Alla terza insistenza dell'operatore lui non solo ha detto di no, ma addirittura ha chiuso il conto e se n'è andato, quindi era proprio un po' pressato e quindi non ha accettato questo comportamento. Un altro ascoltatore nel settore gioiellerie invece ci scrive: con le quotazioni di vendita delle società che lavorano con le banche, noi gioiellieri siamo entrati nel limbo degli onestoni. Adesso non capisco. No, ma che le spiego la questione. Allora, c'è una legge di pubblica sicurezza che prevede in realtà che questo tipo di pietre potrebbero e dovrebbero, in base alla legge, essere vendute solo in gioielleria. Ah. Questa è una questione sulla quale la Federorafi si sta battendo, perché sostiene che tutto quello che è transato fuori dal canale ufficiale delle gioiellerie non può essere considerata una vendita legale, perché devono essere presenti, ad esempio, coloro che sono in grado di verificare al momento la qualità della pietra e altre questioni. E anche perché questo lo stabilisce la legge, cioè il canale, l'unico canale legale attraverso il quale comprare queste pietre, secondo Federorafi, ripeto, secondo Federorafi, è la gioielleria, e su questo loro continuano a battersi. Certo. Alessandro Pedone, che cos'altro dobbiamo aggiungere rispetto a questa vicenda che sicuramente ha ancora molti aspetti da raccontare? Dicevamo, i prossimi step, le prossime questioni delle quali parleremo sono intanto l'attesa pronuncia dell'autorità garante del mercato e della concorrenza. Peraltro, ecco, vogliamo spiegare magari bene questo passaggio: chiamate esattamente a pronunciarsi su che cosa? Perché il tema è le pratiche commerciali. Esattamente che cosa dovrà dire l'autorità? Sì, allora io volevo fare due brevissime accenni alle questioni precedenti. Intanto, come elemento di informazione finanziaria, e quindi se vogliamo anche di educazione finanziaria, anche se il termine non mi piace moltissimo, non è che sia sbagliato di per sé investire in diamanti, ma è fondamentale capire che non esiste questa favola dell'andamento lineare del prezzo del diamante che cresce e basta. Questa è una favola, cioè non esiste. Il prezzo del diamante è un prezzo che oscilla come tutte le altre cose, quindi se uno, diciamo, ha piacere a questo tipo di investimento, deve essere consapevole di tutti i rischi. Posso dire, è un po' come tutta la confusione generata dal nominare continuamente l'oro come bene rifugio, poi in realtà ci sono dei momenti... Esattamente, bravissima. Sono due cose in parte sovrapponibili. Si tratta di strumenti, si tratta di beni che hanno una forte oscillazione di prezzo e quindi non c'è nessun particolare vantaggio, almeno per l'elemento dell'oscillazione, rispetto ad altri tipi di investimento. Questo come elemento. Seconda informazione che vorrei dare come elemento di protezione degli investitori e dei clienti che sono incappati in questa situazione, noi abbiamo acceso un piccolo faro, è una cosa tecnica ma abbastanza importante da evidenziare. Attenzione, perché molto spesso questi diamanti acquistati in banca poi rimangono nella disponibilità materiale di queste società di PI, di PE, eccetera. La prima, diamanti in deposito per oltre 670 milioni di euro. Esattamente. Allora, nel caso in cui questa pronuncia dell'antitrust, di cui non sappiamo ancora cosa conterrà, ma contenesse delle informazioni rilevanti che potrebbero mettere a rischio la sussistenza di queste imprese stesse, il fatto che i diamanti siano là, è vero che appartengono e sono in custodia dei clienti, ma non sarà semplicissimo rientrarne in possesso nel caso in cui la stabilità finanziaria di questa società fosse messa in discussione da un insieme di clienti che rivolgono la richiesta di rientrare in possesso dei loro soldi. Quindi noi riteniamo che non sia cauto tenere in custodia il diamante acquistato presso questa società, e quindi sia preferibile tenerlo di per sé e provare a venderlo direttamente nel caso in cui si voglia venderlo, invece che attraverso di loro, perché molto difficilmente loro riusciranno a piazzarlo, sicuramente ai prezzi da favola che si sono inventati, completamente inventati loro, che non corrispondono ai prezzi di mercato. Allora, stiamo grazie ad Alessandro Pedone. Noi stiamo andando verso la chiusura. 30 secondi, Nicola, per un ultimo messaggio. Su che cosa continuerete ad indagare rispetto a questo argomento? Ma noi adesso stiamo in attesa, ovviamente. C'è anche chi ha un ETF sull'oro? Ah no, me stavo guardando, vabbè, qua parliamo. Siamo in attesa adesso, in questo momento, delle decisioni dell'antitrust. La prima cosa che aspettiamo sono le loro decisioni con la loro pronuncia. Poi ovviamente aspetteremo che ne parli anche la Consob, perché c'è un'indagine in corso anche da parte di Consob e Banca Italia, che è sul lato investimento intermediario bancario. E poi, signori, è in corso questa indagine della Procura della Repubblica di Milano. 5 banche che sono state perquisite a giugno, aspettiamo che anche i magistrati ci dicano qualche cosa. Ripeto, la Procura della Repubblica indaga per il reato di truffa. Pensiamo a quanti nonni hanno fatto questo investimento per i nipoti. È il classico regalino del battesimo, questo, Nicola. È ovvio che su Plus 24, sul Sole 24 Ore, le rubriche della posta sono sempre aperte. Come la mia indirizzo di posta elettronica a tutti coloro che vogliono darci segnalazioni. E noi ti gireremo anche tutte le mail che arrivano a 2 di denari @radio24.it, che torna domani. Buona giornata a tutti.